Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. Ondivago diventa Ondivox per arredare con alcuni classici della letteratura i vostri padiglioni auricolari. Alessandro Rizzo legge La patente di Luigi Pirandello. Non era ancor vecchio, poteva avere appena 40 anni, ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice d'Andrea. E pareva che egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro, e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così sbilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui, lo dicevano tutti. Vedere non aveva potuto vedere molte cose il giudice d'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. Il giudice d'Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre, e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarito. E al giudice d'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che egli dovesse recarsi al suo ufficio d'istruzione ad amministrare, per quel tanto che lui toccava, la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell'ufficio d'istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di 2 o 3 ore il desinare e di rinunziare la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo amministrare la giustizia gli toccava, ma ad amministrarla così, su due piedi. Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva ad aiutarsi meditando la notte. Ma neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrari a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice istruttore. Cosicché la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte, è cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell'odiosa sua qualità di giudice istruttore. Eppure, per la prima volta da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice d'Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un'irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Si sprofondava tanto in questa tetraggine che gli occhi aggrottati a un certo punto gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul busto, il giudice d'Andrea si metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il bozzolo. Appena o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo si ridestava e gli occhi gli andavano lì, a quell'angolo del tavolino dove giaceva l'incartamento, voltava la faccia e serrando le labbra tirava con le nari fischianti aria, aria, aria, e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad allargare le viscere contratte dall'esasperazione. Poi la ributtava via, spalancando la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso adunco a reggere le lenti che per il sudore gli scivolavano. Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro alla quale un povero uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C'era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì, in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano. E, sì signori, la giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, ribadendo così, ferocemente, l'iniquità di cui quel povero uomo era vittima. A passeggio tentava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del Chiarchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a far le corna o si afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio e qualcuno più francamente prorompeva: «Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?» Ma non poteva starsi zitto il magro giudice d'Andrea. Se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo. Gira e gira ricascava per forza a parlarne, per avere un qualche lume dai colleghi, diceva, per discutere così, in astratto, il caso. Perché in verità era un caso insolito e speciosissimo, quello d'uno iettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fare gli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione. Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore. Se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente. Come condannare in coscienza quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri e primi fra tutti? Eccoli là, gli stessi giudici. E il D'Andrea si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle quali mani si erano messi quei due giovanotti, l'esile e patitissimo avvocato Grigli dal profilo di vecchio uccello di rapina e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo sulla pancia un enorme corno comperato per l'occasione, ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa alle spalle di un povero disgraziato, il giudice D'Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiarchiaro per invitarlo a venire all'ufficio d'istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli 448 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi soprattutto, perché questo bisogno d'aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare, tanto che il beneficio diventa difficilissimo. Se ne accorse bene quella volta il giudice D'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il Chiarchiaro, che gli era entrato nella stanza mentre egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi il piacere, che storie sono queste? Vergognatevi!» Il Chiarchiaro s'era combinata una faccia da iettatore che era una meraviglia a vedere. S'era lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta. S'era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto d'un Barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice lui non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: «Lei dunque non ci crede?» «Ma fatemi il piacere», ripeté il giudice D'Andrea, «non facciamo scherzi, caro Chiarchiaro. Siete impazzito, via, via, sedete qua». A Don Divago la lettura di «La patente» di Luigi Pirandello. La voce è di Alessandro Rizzo, ondivago.com. Come? Egli si accostò e fece per posargli una mano sulla spalla. Subito il chiacchiero sfagliò come un mulo, fremendo. «Signor giudice, non mi tocchi, se ne guardi bene, o lei, come vero Dio, diventa cieco». Il D'Andrea stette a guardarlo freddamente. Poi disse: «Quando sarete comodo, vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia, sedete». Il chiacchiero sedette e, facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un matterello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla iettatura?» Il D'Andrea sedette anche lui e disse: «Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo. Va bene così?» «No, signore», negò recisamente il chiacchiero, col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo istruendo il processo». «Questo sarà un po' difficile», sorrise mestamente il D'Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro chiacchiero. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto». «Via, porto. Che porto e che via?» domandò aggrondato il chiacchiero. «Né questa d'adesso», rispose il D'Andrea, «né quella là del processo. Già l'una e l'altra, scusate, son tra loro così». Il giudice D'Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. Il chiacchiero si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito. «Non è vero niente, signor giudice», disse agitando quel dito. «Come no?» esclamò il D'Andrea. «La accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura». «Sì, signore. E non vi pare che ci sia un po' di contraddizione?» Il chiacchiero scosse più volte il capo con la bocca aperta, un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. «Mi pare piuttosto, signor giudice, che lei non capisca niente». Il D'Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. Dite pure, caro chiacchiero. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente». «Sì, signore. Eccomi qua», disse il chiacchiero accostando la seggiola. «Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, sì signore, lei che crede di fare il mio bene, il mio più acerrimo nemico. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Manin Baracca?» «Sì, questo lo so». «Ebbene, all'avvocato Manin Baracca, io, Rosario Chiacchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto, cioè che non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate e testimonianze irripetibili dei fatti spaventosi su cui edificata incrollabilmente, capisce, signor giudice, la mia fama di iettatore». «Voi siete andato dal Baracca?» «Sì, signore, io». Il giudice lo guardò più imbalordito che mai. «Capisco anche meno di prima. Ma come? Per rendere più sicura l'assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato?» Il chiacchiero ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D'Andrea. Si levò in piedi gridando con le braccia per aria: «Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza». «Non capisce ancora?» «Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l'unico mio capitale». E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice D'Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani commosso e ripeté: «Povero caro chiacchiero mio, povero caro chiacchiero mio, bel capitale! E che te ne fai? Che te ne fai?» «Che me ne faccio?» rimbercò pronto il chiacchiero. «Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po', lei non ha dovuto prendere la laurea?» «La laurea sì». «Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice. la patente di iettatore. Col bollo, con tanto di bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi? E poi? E poi me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato, io lavoravo, mi han fatto cacciar via dal banco dove ero scritturale con la scusa che essendoci io nessuno più veniva a far debiti e pegni. M'hanno buttato in mezzo a una strada con la moglie paralitica da 3 anni e 2 ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie. Viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, 4 bambini, e non può fare a lungo questo sacrificio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dell'iettatore. Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest'abito, mi sono lasciato crescere la barba e ora aspetto la patente per entrare in campo. Lei mi domanda come? Me lo domanda perché... perché le ripeto, lei è un mio nemico. Io... Sì, signore, perché mostra di non credere alla mia potenza, ma per fortuna ci credono gli altri, sa, tutti, tutti ci credono. E ci sono tante case da gioco in questo paese. Basterà che io mi presenti, non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via. Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche, mi pianterò innanzi a tutte le botteghe e tutti, tutti, tutti mi pagheranno la tassa. Ah, lei dice dell'ignoranza? Io dico la tassa della salute, perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo d'avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Il giudice D'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia gli serrava la gola e desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il chiarcaro a lungo. Il giudice D'Andrea, ancor con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il chiarcaro a lungo. Forte, forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. Mi vuol bene davvero? Gli domandò. E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. La patente. Il chiarchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d'indie sul pavimento, e portandosi l'altra mano al petto, ripeté con tragica solennità. La patente. Ad Ondivago abbiamo ascoltato La patente di Luigi Pirandello. La voce che avete sentito è di Alessandro Rizzo. Scaricate la puntata e gustatela nei vostri lettori, telefonini e forni a microonde. I miei più ondivagosi saluti, Max Ponte. Ondivago.com